il fiore della braveria d'Italia, quegli uomini senza paura e senza misericordia, vederli in carne e ossa, incontrarne uno o due o tre a ogni voltata di strada. Si chinavano sommessamente al Signore, ma certi visi abbronzati, certi baffi irti, certi occhiacci che a Don Abbondio pareva che volessero dire «fargli la festa a quel prete?» A segno che, in un punto di somma costernazione, gli venne detto tra sé: «Li avessi maritati, non mi poteva accadere di peggio!» Intanto s'andava avanti per un sentiero sassoso, lungo il torrente. Al di là, quel prospetto di balze aspre, scure, disabitate. Al di qua, quella popolazione da far parer desiderabile ogni deserto. Dante non ne stava peggio nel mezzo di Malebolge. Passan davanti la malanotte, bravacci sull'uscio, inchini al Signore, occhiate al suo compagno e alla lettiga. Coloro non sapevan cosa si pensare. Già la partenza dell'innominato solo, la mattina, aveva dello straordinario. Il ritorno non lo era meno. Era una preda che conduceva? E come l'aveva fatta da sé? E come una lettiga forestiera? E di chi poteva essere quella livrea? Guardavano, guardavano, ma nessuno si muoveva, perché questo era l'ordine che il padrone dava loro con delle occhiate. Fanno la salita, sono in cima. I bravi che si trovano sulla spianata e sulla porta si ritirano di qua e di là per lasciare il passo libero. L'innominato fa segno che non si muova di più. Sprona e passa davanti alla lettiga. Accenna al lettighiero e a Don Abbondio che lo seguono. Entra in un primo cortile, da quello in un secondo, va verso un usciolino, fa stare indietro con un gesto un bravo che accorreva per tenergli la staffa e gli dice: «Tu sta costì e non venga nessuno». Smonta, lega in fretta alla mula un'inferriata, va alla lettiga, s'accosta alla donna che aveva tirata la tendina e le dice sottovoce: «Consolatela subito, fatele subito capire che è libera, in mano d'amici, Dio ve ne renderà merito». Poi fa cenno al lettighiero che apra, poi si avvicina a Don Abbondio e con un sembiante così sereno come questo non gliel'aveva ancor visto né credeva che lo potesse avere, con dipintavi la gioia dell'opera buona che finalmente stava per compiere, gli dice ancora sottovoce: «Signor curato, non le chiedo scusa dell'incomodo che ha per cagion mia. Lei lo fa per uno che paga bene e per questa sua poverina». Ciò detto, prende con una mano il morso, con l'altra la staffa, per aiutar Don Abbondio a scendere. Quel volto, quelle parole, quell'atto gli avevano dato la vita. Mise un sospiro che da un'ora gli s'aggirava dentro senza mai trovar l'uscita. Si chinò verso l'innominato, rispose a voce bassa bassa: «Le pare, ma e sdrucciolò alla meglio dalla sua cavalcatura. L'innominato legò anche quella e, detto al lettighiero che stesse lì ad aspettare, si levò una chiave di tasca, aprì l'uscio, entrò, fece entrare il curato e la donna, s'avviò davanti a loro alla scaletta e tutti e tre salirono in silenzio. Lucia s'era risentita da poco tempo e di quel tempo una parte aveva penato a svegliarsi affatto, a separare le torbide visioni del sonno dalle memorie e dalle immagini di quella realtà troppo somigliante a una funesta visione d'inferno. La vecchia le si era subito avvicinata e con quella voce forzatamente umile le aveva detto: «Ah, avete dormito? Avreste potuto dormire in letto, ve l'ho pur detto tante volte ier sera». E non ricevendo risposta, aveva continuato sempre con un tono di supplicazione stizzosa. «Mangiate una volta, abbiate giudizio. Oh, come siete brutta! Avete bisogno di mangiare, e poi se quando torna la piglia con me?» «No, no, voglio andare via. Voglio andare da mia madre. Il padrone me l'ha promesso, ha detto domattina. Dov'è il padrone?» «È uscito, mi ha detto che tornerà presto e che farà tutto quel che volete.» «Ha detto così? Ha detto così? Ebbene, io voglio andare da mia madre subito, subito.» Ed ecco, si sente un calpestio nella stanza vicina, poi un picchio all'uscio. La vecchia corre e domanda «Chi è?» «Apri», risponde sommessamente la nota voce. La vecchia tira il paletto. L'innominato, spingendo leggermente i battenti, fa un po' di spiraglio. Ordina alla vecchia di venir fuori. Fa entrare subito don Abbondio con la buona donna. Socchiude poi di nuovo l'uscio, si ferma dietro a quello e manda la vecchia in una parte lontana del castellaccio, come aveva già mandata via anche l'altra donna che stava fuori di guardia. Tutto questo movimento, quel punto d'aspetto, il primo apparire di persone nuove, cagionarono un soprassalto d'agitazione a Lucia, alla quale, se lo stato presente era intollerabile, ogni cambiamento però era motivo di sospetto e di nuovo spavento. Guardò, vide un prete, una donna, si rincorò alquanto, guarda più attenta, è lui o non è lui? Riconosce don Abbondio e rimane con gli occhi fissi, come incantata. La donna, andatale vicino, si chinò sopra di lei e, guardandola pietosamente, prendendole le mani come per accarezzarla e alzarla un tempo, le disse: «Oh, poverina, venite, venite con noi.» «Chi siete?» le domandò Lucia, ma senza aspettare la risposta si voltò ancora a don Abbondio, che s'era trattenuto discosto due passi, con un viso, anche lui, tutto compassionevole. Lo fissò di nuovo e esclamò: «Lei, e lei, il signor curato, dove siamo? Oh, povera me, son fuori di sentimento.» «No, no», rispose don Abbondio, «sono io davvero. Fatevi coraggio. Vedete, siamo qui per condurvi via. Sono proprio il vostro curato, venuto qui apposta, a cavallo.» Lucia, come riacquistate in un tratto tutte le sue forze, si rizzò precipitosamente. Poi fissò ancora lo sguardo su quei due visi e disse: «E dunque la Madonna che vi ha mandati?» «Io credo di sì», disse la buona donna. «Ma possiamo andar via? Possiamo andar via davvero?» riprese Lucia abbassando la voce e con uno sguardo timido e sospettoso. «E tutta quella gente?» continuò con le labbra contratte e tremanti di spavento e di orrore. «E quel signore, quell'uomo? Già, me l'aveva promesso. È qui, anche lui in persona, venuto apposta con noi», disse don Abbondio. «È qui fuori che aspetta. Andiamo presto, non lo facciamo aspettare un par suo.» Allora quello di cui si parlava spense l'uscio e si fece vedere. Lucia, che poco prima lo desiderava, anzi, non avendo speranza in altra cosa del mondo, non desiderava che lui, ora, dopo aver veduti visi e sentite voci amiche, non poté reprimere un subitaneo ribrezzo. Si riscosse, ritenne il respiro, si strinse alla buona donna e le nascose il viso in seno. L'innominato, alla vista di quell'aspetto sul quale già la sera avanti non aveva potuto tener fermo lo sguardo, di quell'aspetto reso ora più squallido, sbattuto, affannato dal patire prolungato e dal digiuno, era rimasto lì fermo, quasi sull'uscio. Nel veder poi quell'atto di terrore, abbassò gli occhi, stette ancora un momento immobile e muto, indi, rispondendo a ciò che la poverina non aveva detto, «È vero», esclamò, «perdonatemi.» «Viene a liberarvi, non è più quello, è diventato buono. Sentite che vi chiede perdono», diceva la buona donna all'orecchio di Lucia. «Si può dir di più? Via, su quella testa, non fate la bambina, che possiamo andar presto, le diceva don Abbondio. Lucia alzò la testa, guardò l'innominato e, vedendo bassa quella fronte, atterrato e confuso con lo sguardo, presa da un misto sentimento di conforto, di riconoscenza e di pietà, disse: «Oh, il mio Signore, Dio le renda merito della sua misericordia e a voi 100 volte il bene che mi fanno codeste vostre parole». Così detto, si voltò, andò verso l'uscio e uscì il primo. Lucia, tutta rianimata, con la donna che le dava il braccio, gli andò dietro, don Abbondio in coda. Scesero la scala e arrivarono all'uscio che metteva nel cortile. Anna Bonaiuto ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it. Per il podcast radio3.rai.it.